convivo con un cane sostanzialmente fascista. Cane d'ordine, vorrebbe tutti in fila per due in un mondo di regole ferree ed immutabili. Riconosce un alticcio a 50 metri, un extracomunitario a 100, uno zingaro a 150. Ringhia e abbaia a chi chiede l'elemosina, a chi siede ogni dove non ci sia un artefatto legittimato come panchina, sedia o sedile autorizzato dalla pubblica autorità. Gelosissima del proprio spazio vitale, sessuofoba al punto che al suo confronto la regina Vittoria sembra una libertina, detesta i suoi simili, a maggior ragione se giocherelloni. Ama i suoi padroni non senza evidenti riserve morali per la loro disponibilità sociale. Rispetta chi attraversa sulle strisce e scodinzola festosa a chi indossa un uniforme. Nella sua antropologia della bibliofilia, antropologia della bibliofilia, che è stato tradotto in italiano come il desiderio di libro, Renaud Müller spiega come e perché il libro in quanto tale, ha finito con l'assumere nella nostra società quel valore che spesso, se non sempre, colti ed incolti quanto mai uniti nell'ossequio, volentieri gli assegnano. Per molto tempo, dice Müller, per molto tempo il libro è servito come oggetto liturgico e è proprio allo scopo di conferirgli un carattere sacrale riconoscibile da tutti i membri della Chiesa vennero adottati codici facilmente riconoscibili. È così che via via il libro ha assunto una funzione educativa di massa e soprattutto la piena rappresentanza della legittimità del potere. Tuttora attorno al libro vigono cerimoniali che ne implicano la sacralità, che nella Chiesa romana possono prendere la forma del vescovo, per esempio, che tiene il libro orizzontalmente con entrambe le mani sulle ginocchia, il taglio rivolto verso gli ordinandi che lo toccano mettendo il pollice sotto e le altre dita sopra, come racconta D.B. nella sua Etnologia dei preti, ma che nelle case di tutti noi possono prendere la forma, della spennellatura amorosa della polvere, della raccolta composta di dorsi simili, delle rilegature ricercate ai fini di un arredamento che formalmente, sprizzi cultura. Si comprende bene allora come il libro possa diventare oggetto di desiderio, generando vere e proprie comunità che come tale lo condividono e che fanno di tutto per giungerne in possesso, ricevendone altresì in compenso un attestato della posizione sociale di chi l'ha ottenuto. Io stesso sono pronto a cadere nella più cupa disperazione per il libro che non trovo. Quello che so di aver comprato, so di aver letto, so di aver scrupolosamente annotato sui margini, so di aver messo in quel posto, in uno scaffale della biblioteca e che in quel posto, nel momento in cui ne ho bisogno, in quel posto non c'è. Nelle forme di guerriglia attuabili, fra coppie che si separano, spesso sono utilizzati i tesori di famiglia. Banconote, azioni societarie, obbligazioni, ori, pietre preziose, conti in banca, che si abbia un valore in qualche mercato. Quando non viene utilizzato in queste crisi di coppie, addirittura vite altrui, figli per esempio, o il cane, il gatto, il pappagallo di casa, uno dei due se ne serve nella realizzazione delle due sole strategie che apparentemente gli restano a disposizione, ricatto o vendetta. A quest'ultima classe di strategie postmatrimoniali sembra ispirarsi la moglie di Marcello Veneziani, intellettuale dichiaratamente di destra, con i dubbi del caso riguardo al sostantivo, data la sua collaborazione al quotidiano Libero, sulle pagine del quale per l'appunto si è coraggiosamente sfogato. Sua moglie da cui si sta separando, da cui si è separato, gli sta facendo secchi, uno per uno o a carrettate, gli sta facendo secchi i suoi 15.000 amati volumi che fino a ieri hanno costituito la sua indispensabile biblioteca. Libri che, non essendo libri qualsiasi, ma libri letti, libri chiosati, annotati sui margini, equivalgono per lui all'ossigeno che respira. I giornali riprendono la sua storia. Aiuto, mia moglie mi brucia i libri. E nell'approntare hic et nunc il repertorio delle perfidie storiche d'occasione, non so, i vestiti tagliuzzati buttati in una pattumiera dalla finestra, la biancheria intima lordata, la memoria del computer cancellata, non so, interrogano. Allora i giornali interrogano politici e intellettuali perché commentino la vicenda. E fra questi commenti mi cade l'occhio sulla considerazione di Giano Accame, fascistone convinto nonostante il cognome, ma fascistone piuttosto originale ed elucubrante, diciamo così, improprio, almeno tanto da scrivere un libro intitolato Il fascismo immenso e rosso. Ora, dopo aver colto l'occasione per affermare, tramite le disgrazie di Veneziani e, perché no, anche quelle di sua moglie, che va sfatandosi allora il pregiudizio di una destra che non ami i libri, e dopo averne incolpato lo sa Dio perché Gramsci e Togliatti, no, come se ad insultare gli intellettuali dei miei stivali fossero stati loro e non Mussolini, beh, Accame dice che una biblioteca è un forte elemento di stabilità personale, familiare, psicologica. Anche se avrebbe forse dovuto aggiungere che questa considerazione è valida per un certo tipo di persona a bagno in un certo tipo di brodo culturale, non per qualsiasi essere umano sulla terra, per fortuna, credo la storia del libro in quanto oggetto socialmente investito di valori lo confermi. A dettare le coordinate della nostra normalità ed a regolare il ritmo del nostro pensiero stanno anche, perché no, le nostre letture, almeno quando queste letture non si riducono alla mera ricezione passiva della parola altrui, ma sollecitano le nostre reazioni, ci richiamano alle nostre responsabilità non tanto di lettori quanto piuttosto di persone vive e attive in quel mondo al quale comunque quelle letture si riferiscono. Quest'estate, una mattinata al mare. Con mia moglie ci scambiamo l'onere di trascinare la riottosa papere per le vie del paese. Per invogliarla le indichiamo le pipì da usmare, gliene promettiamo di migliori qualche centinaia di metri più in là, le parliamo di cani da incontrare, pronti da mettere in riga con un'abbaiata furibonda. E succede che svoltiamo un angolo e che all'improvviso dall'altra parte sopraggiunga un altro cane ad un altro guinzaglio. Al volo, compresa la situazione, facciamo per trattenerla prima che accada l'irreparabile. E invece no, perché dopo il primo chi va là, la coda, già ritta e tesa, si ammorbidisce, oscilla un poco e quindi prende a sventolare festosa, bacini di qua, bacini di là, usmate reciproche, perfino qualche cenno di cedimento nelle savonarolesche barriere dell'intimità. E a questo punto alzo il capo sereno e sorrido a chi tiene l'altro guinzaglio. L'avevamo visto di recente in qualche dibattito televisivo. Lo riconosco, capisco, il sorriso mi si spegne. convivo con un cane sostanzialmente, proprio sostanzialmente fascista. Dico, ah, lei è Giano Accame. Dice di sì, ci presentiamo, Accame, piacere Accame. E lui dice che allora siamo parenti. No, no, gli dico subito, non siamo parenti. E lui insiste, ci racconta di un notaio di 70 anni fa che ha lavorato tutta una vita per dimostrare, poi anche ha pubblicato un libro, per dimostrare che tutti gli Accame del paese discendono tutti, ma proprio tutti, dal medesimo ceppo e che dunque mi dia retta, mi dice, siamo parenti. Tutti, faccio io. Okay. A questo punto lui tentenna un attimo. Tranne alcuni, che provengono invece dagli Accame di Arnasco, ma non... Ecco, e qui chiudo senza guardare la faccia del mio cane. Ecco, io per l'appunto sono di quella famiglia lì. ¶¶